Ik ben Renaat Schotten, welkom bij Geronimo. Amiche e amici del ciclismo, del riposo, del sole, dei laghi e delle piscine, benvenuti a una nuova puntata di Gironimo, il podcast di Al Vento dedicato al Giro d'Italia 2023, persino nei giorni di riposo, realizzato insieme ai nostri amici di Shimano, con cui parleremo a lungo in questo episodio, e grazie alle voci di Bidon, ovvero la mia, che sono Filippo Cauz. La mia, che sono Michele Pelacci. E la mia, sono Leonardo Piccione. Ognuno con la sua pomeriggio, oggi. Sì, ognuno con la sua voce. Poi l'ultima puntata la facciamo invece con invertiamo con le voci. Con le voci degli altri. Non c'è la voce che ieri abbiamo avuto ospite con nostro grande piacere, quella di Gino Cervi, che incontreremo prossimamente. Che speriamo di risentire presto, con cui poi abbiamo trascorso una splendida serata ieri sera. Però c'è stata la voce di Renat in apertura. Io sono emozionato ad essere introdotto da Renat. Sì, è vero, è una voce un grande... importante un per grande il mondo. Riferimento che abbiamo incontrato la scorsa settimana, esatto. Non ci sarà in questa puntata, ma c'è il suo benvenuto. Giorno di riposo, avevamo detto, riposo fu un grande successo perché in 30 pagarono il biglietto e andarono dentro a dormire e speriamo di dormire anche noi a lungo dopo aver finito di registrare questa puntata qui all'Agriturismo Nonna Bettina, che già vi abbiamo annunciato ieri, che ci ha accolto benissimo, cioè, è stato un posto ottimo fantastico, posto fantastico sul lago di Garda. C'è il cane, c'è il gatto e ci siamo noi che parliamo di ciclismo, parliamo di Giro d'Italia anche oggi. Per molto poco noi parliamo, perché poi lasciamo le voci agli altri, no? Michele, sei d'accordo? Sì, sì, anzi, guarda, meglio così. Meglio così, non ne puoi più di sentire la tua voce e le nostre voci. Forse le nostre. Ma sta diventando una tradizione quella di usare il giorno di riposo del Giro per chiacchierare di Giro d'Italia e non solo con giornalisti al seguito del Giro, in particolare stranieri, giornalisti che vengono dall'estero per seguire il Giro e lo raccontano al loro pubblico, ai loro ascoltatori, radioascoltatori o telespettatori. Anche oggi abbiamo Teleascoltatori, che nel ciclismo sono un sacco, no? I teleascoltatori. Sì, perché il ciclismo, secondo me, è la classica cosa che metti in televisione e magari nel frattempo fai altro. È vero, io per anni ho fatto così. E, anzi, forse mi sono proprio appassionato al ciclismo in questo modo, facendo altro con la TV. Ma tuttora spesso lo fa, cioè le corse su cui magari non devo scrivere, fare i podcast e cose così, per buona parte le teleascolto. Sì. E poi tutti quelli che, come ho fatto anch'io per anni, seguono il ciclismo in ufficio. E vero. Lì si è tutti teleascoltatori. Vero, vero, vero. Allora, anche oggi vi proponiamo delle conversazioni con giornalisti. I primi due sono giornalisti di non della TV, non della radio, di un sito, del maggiore sito. Del sito. Il maggiore sito mondiale, credo, di ciclismo, che si chiama Cycling News. E loro sono i due inviati storici ormai del Giro d'Italia, al Giro d'Italia. Si tratta di Stephen Farrand e Barry Ryan. E abbiamo parlato con loro in generale di questo giro, della loro esperienza in Italia e di altre cose. È stata una bella chiacchierata leggera, ma molto interessante secondo me insieme a loro. Allora, ormai facciamo questa cosa delle interviste ai giornalisti nel giorno di riposo, ma è la prima volta che ne facciamo due insieme. Due giornalisti stranieri che parlano italiano meglio di noi entrambi, per cui questo è un capolavoro questa intervista. Siamo con Stephen Farrand e Barry Ryan di Cycling News. Benvenuti a Gironimo. Grazie, grazie. Grazie ragazzi. Io già mi conoscete, non sono uno di... sono Leonardo, ciao. E Ryan, Barry e Stephen sono due presenze fisse ormai della sala stampa. Noi vi abbiamo sempre visti da quando frequentiamo questo ambiente. Quanti Giri d'Italia avete seguito? Cercavo di fare il conto prima, in teoria io lo sento che sono 30, però poi facendo il conto ho saltato due per gli anni Covid, quindi sono 28. Però ne senti 30 nelle gambe? Sì, le gambe, la testa, ginocchio, tutte le parti. Barry? Io invece ho iniziato solo nel 2011, quindi Stephen è il team leader di Cycling News, io sono il gregario fiducioso, leale. Io cerco solo di di spingere in pianura e poi Steven finisce dà il colpo finale in salita. Non è vero, perché sono io gregario, perché che Barry è il Sean Kelly del ciclismo scritto in lingua inglese, perché è un maestro, è un vincitore, è bravissimo a scrivere. Io sono un gregario che cerca qualche battuta, qualche notizia, così. Quindi lui è il capitano. Intanto ho capito che è Barry e non Barry. Avevo già sbagliato fin qui. Sì, però tanti italiani fanno lo stesso errore. Anzi, infatti, anni fa avevo anche una ragazza italiana che per qualche settimana ha pensato che io mi chiamavo Barry, quindi... Quindi tu l'italiano abbiamo capito come l'hai imparato. E invece Steven? Anch'io, io vivo in Italia da più di 30 anni, quindi l'ho imparato così. Dove? A Livorno. A Livorno. C'è un motivo, a parte che Livorno è una città bellissima sul mare, sì. Che mi sento livornese anch'io, però la mia cugina abitava in Italia prima a Firenze, poi a Livorno, quindi sono venuto con la bicicletta nell'89, sono tornato per 3 mesi nel 90. Con la bicicletta da dove sei partito? Da Oldham, vicino a Manchester, quindi spawn da Manchester City, perché poi c'è anche questo, Barry è un tifosissimo di Manchester United, quindi non siamo proprio una squadra unita. Una strana momento, coppia, si sì. dice. E io sono rimasto a Livorno, così. E ho iniziato a scrivere come freelance, come collaboratore, e poi sempre di più. In tutti questi anni, questo è il giro con il clima peggiore che hai visto, o te ne ricordi di peggiori? No, ci sono stati peggiori. Anche l'anno scorso non era granché di giro, no? Finché l'ultima tappa... No, il clima, la pioggia, il freddo... Vabbè, fa parte. Io sono di Manchester, quindi la pioggia... Per te c'era pioggia. Del tempo. No, io preferisco il sole, però fa parte anche del ciclismo, no? Non so... Sì, ha cambiato la corsa, ha limitato, ha causato malattie, cadute, però... è quello che è. Anche il giro non è stato un spettacolo finora, però va preso per quello che è. No? È una gara a tappe, in inglese è un test match, no? Un partito di cricket di 5 giorni, non è una gara di un giorno. Forse siamo abituati male, adesso vogliamo tutto subito, però la bellezza dei grandi giri come il Giro d'Italia è l'attesa, no? E poi la botta finale, come ha detto Grant Thomas, aspettiamo i fireworks nel finale, quindi dobbiamo aspettare. Secondo voi, lo chiedo a te Barry, secondo te ha senso ancora oggi, nel 2023, una corsa a tappe come il Giro, che concentra tutto lo spettacolo alla fine e presenta le prime 2 settimane come queste, in cui è successo praticamente nulla, dal punto di vista dello show? Ha senso? Bisogna ripensarlo, secondo te, magari, la struttura di una corsa a tappe? Sì, no, secondo me ha ragione che bisogna ripensare un po'. Ovviamente a livello geografico non è semplice in Italia, perché normalmente il Giro finisce a Milano. Ovviamente quest'anno il Giro finisce a Roma e facciamo un'ultima settimana nel nord Italia, in montagna, quindi già quest'anno magari il percorso andava ripensato. Però sì, questa idea è, secondo me, un po' fa parte del Giro moderno, perché non so se facesse sempre parte della storia del Giro, ma sicuramente negli anni 2000 c'è questa idea che l'ultima settimana del Giro è come, non so, gli ultimi 10 chilometri di una maratona, e la settimana più dura, la settimana capitale, eccetera eccetera. E adesso abbiamo una situazione dove quasi tutti i corridori, forse è esagerato dire che hanno paura dell'ultima settimana, però non si fidano dell'ultima settimana, soprattutto con tutte queste piogge. Quindi già questo pomeriggio Mark Reef stava parlando di Roglic, e proprio come ha detto Thomas, stiamo qui ad aspettare, vediamo, ci sono le tappe più dure sono sempre davanti a noi, nonostante il fatto che ovviamente hanno già fatto tante fatiche nelle ultime 2 settimane, però... Sì, secondo me il percorso va un po' ripensato, perché l'ultima settimana sulla carta è molto difficile, però nella testa diventa troppo difficile, questo è un po' un problema. Ma secondo voi, con un Remco Evenepoel senza Covid e in forma, saremmo a raccontare le stesse cose adesso? Ma come dite voi, if my grandmother had wheels, no? Quindi, perfetto. No, è un grande peccato che non c'è più Remco, che non c'è più la battaglia, perché sicuramente Remco, speriamo, avrebbe attaccato, forse oggi avrebbe attaccato altri giorni, sarebbe stata un'altra gara. Però un altro pensiero che ho io è che anche voi siete bravissimi a trovare la bellezza di questo sport, di questa gara, no? Grazie. Quindi, però c'è bellezza in ogni momento, in ogni difficoltà, in ogni tappa, perché la fuga di oggi con McNulty, Healy, il frigo che rientrava, non è bello? Vogliamo sempre di più, non so. Sono molto d'accordo con te su questo. Sui media italiani si parla, si usa questo verbo in questo giro molto, onorare la corsa. Si dice che i corridori non la stanno onorando o perché no, l'accorciamento della tappa, non vogliono correre, oppure perché oggi non hanno onorato il pubblico che era presente sulle strade. Io ho una posizione molto precisa, qual è la vostra? Cosa significa onorare una corsa, secondo voi, da parte dei corridori? Ma alla fine onorare una corsa, alla fine una corsa è lì e per essere, i corridori cercano di vincere la corsa, non, alla fine non tocca ai corridori, non è il loro compito di dare spettacolo, alla fine vengono pagati purtroppo per vincere, quindi secondo me questa idea di onorare la corsa, alla fine questi corridori devono rispondere ai manager, agli sponsor, eccetera, e portare il risultato a casa. Ovviamente noi magari vorremmo più spettacolo, eccetera, eccetera, però alla fine questi corridori hanno... è molto facile parlare dalla sala stampa o dal divano, dire che non c'è spettacolo, però quando c'è questo fantasma dell'ultima settimana nelle teste, due, c'è tutte queste piogge, tre, ci sono questo ciclismo moderno dove è sempre più difficile staccare i corridori sulle slitte. Alla fine queste cose capitano. Poi parlare di onorare la corsa, non so, diciamo, penso che i corridori hanno il diritto anche di dire queste condizioni sono troppo estreme, hanno tutti noi, se noi ci trovassimo in una situazione in cui dovevamo lavorare in situazioni pericolose per, tra virgolette, dare spettacolo ad altri, anche noi probabilmente cercheremo di cambiare un po' queste condizioni invece di pensare ad onorare per la corsa. Steven? Io credo che i tifosi veri sono onorano sempre i ciclisti, rispettano sempre i ciclisti, quello che fanno o quello che non fanno. Forse chi sta in televisione cercando ascolti, sì, dico quelle di procedere alla tappa, chi magari la piccola minoranza in sala stampa che cerca la critica dovrebbe onorare più loro, i ciclisti, non so. D'accordo anche su questo. Qualcosa di molto più concreto invece, guardiamo alla terza settimana, un pronostico se possibile ragionato su come andrà la corsa, perché abbiamo questi tre corridori vicinissimi uno con l'altro. Oggi Almeida forse è sembrato quello un pochino più vivace e coraggioso, tra virgolette, se vogliamo, però la maglia rosa non ce l'ha nessuno dei tre. Come la vedete? Chi vuole partire? Perché questa è la domanda più difficile, per cui... Io penso che vedremo forse una gara magari un po' come la gara dell'anno scorso, in cui sia Ineos che Jumbo magari saranno contenti di aspettare fino alla fine della settimana prossima, però non vogliono sbilanciare, perché ho chiesto a Riff oggi, saresti contento andare alla crono con Mark Riff del Jumbo, del DS delle Jumbo, voi sareste contenti di andare alla crono finale con questo distacco di 2 secondi? E non, in fondo penso che sarebbero contenti, però questo non ha detto, quindi. E poi magari anche Thomas nella sua testa pensa che può puntare sulla sua resistenza, quindi io non penso che vedremo molto spettacolo martedì, ma forse poi qualcuno cederà soprattutto in quel tappone a tre cime. No. Il tuo favorito chi è? Direi Roglic, probabilmente, perché penso che sembra sempre un pochino in crescita, una squadra anche in crescita, però vediamo, ci potrebbe essere anche delle sorprese soprattutto per il terzo posto sul podio, perché vedo, non è detto che saranno questi tre sul podio, vedo altri che magari possono sorprendere, magari uno come Dombard, forse sono parziale perché sono di Cork come lui, però se uno come lui o Kemna cerca di cogliere l'attimo, magari possono guadagnare qualcosa, non per la maglia rosa, per un podio, però per i prossimi giorni vedo una gara anche un po' blindata, purtroppo. Infatti io vedo la sensazione di Thomas, ma solo perché non mi convince Roglic, perché se il vero Roglic c'era Roglic in questi tempi, sicuramente avrebbe attaccato, no? No? O avrebbe fatto lavorare le squadre per magari giocare per gli abboni in qualche tappa, e non l'ha fatto. Quindi magari si nasconde e magari perderà l'opportunità di battere Thomas. Magari Thomas resisterà, perché in passato, già l'anno scorso, già quando ha vinto il Tour, lui ha sempre 3 settimane nelle gambe, no? Magari scende di peso, c'è la squadra forte, c'è esperienza, quindi piano piano va sempre, secondo me, a favore di Thomas. Li abbiamo rubato già fin troppo tempo, anche se ci avete detto che per voi è una pausa piacevole questa chiacchierata, però mi sa che ci tocca dirvi di tornare a lavorare. La cena è prenotata alle 9, quindi ancora c'è un po' di tempo stasera. Ah, voi ce la fate per le 9? Stasera sì. Dove cenate? A Osio Sotto. La bisteccheria, non so, un posto di carne. Una carne. Stasera è il primo giorno di riposo e si può mangiare la carne. Sì. Ah, ok. Ah, perché gli altri giorni andate... C'è una regola non scritta mia, che Bari non rispetta, che prima della tappa di montagna non va mangiato la carne, perché poi se uno dorme male, poi il giorno dopo non lavora bene. Però sono queste roba da vecchi. Ma secondo me questo vuol dire che lui non lavora nelle tappe di pianura, invece tocca a me di andare a parlare con i velocisti che hanno perso, eccetera, quindi non so. Però la birra a cena, sì. Come è birra? Vino. Vino e grappa, ovviamente, dopo cena, è la cosa più importante, anzi. E allora, prima o dopo la birra, il vino, la grappa, quello che volete, ricordatevi di leggere Stephen Farrand e Barry Ryan su Cycling News, che è un piacere aver avuto con noi oggi e tutti i giorni in sala stampa, quindi grazie mille. Grazie a voi. Grazie a voi, grazie. E finalmente andiamo in Trentino. Adesso inizia il giro di grappe. Adesso arrivano quelle serie. No, non che finora non che siano non le avessimo bevute tutte le altre sere fin qui, ma adesso le abbiamo bevute molto buone anche altrove. Sì, molto buone le grappe, molto bella la chiacchierata con i due amici, colleghi, diciamo così, è un è forse troppo per noi di Cycling News, ma adesso ci spostiamo dal mondo anglofono di Cycling News a quello sloveno. Slavofono. Sì, perché anche oggi vi proponiamo il punto di vista della Slovenia, perché Primoz Roglic è ovviamente in corsa per vincere il giro. Abbiamo parlato con un inviato sloveno, non lo stesso dell'altra volta, perché David, di cui non ricordo il cognome in questo momento, è tornato momentaneamente in Slovenia. Sono arrivati due giornalisti della radio per raccontare questa seconda e terza settimana di giro. Abbiamo parlato con Luca Dolar e insomma sentiamo la prima parte della chiacchierata con lui. So we are with Luca Dolar from the Slovenian radio, right? Exactly, yes. And you are here in the place of David, your colleague, which was here for the bad weather. You are coming for the good weather now. Yeah, right now. But David was here for TV Slovenia and I'm here for Radio Slovenia with other colleague Dare Rupar. And David will probably join us, I don't know, at the end of the Giro, of course, if Primož will be a bit higher than on the third place. Anyway, thank you for the sunshine. Yeah, it's a pleasure, but I came on Thursday, so I got wet also on today's stage at the start. Is this your first Giro? Or? Yeah, my first Giro, but I was on the Tour de France three times now at Vuelta, three times, so but Giro is the first one, yeah. What do you like and you don't like about it until now? Let's say the food is good it's hard to say, but I think the organization is quite on a high level, so nothing really to complain right now except the weather, but it will be better, right? So even if it's your first Giro, let's hear your Italian. it's not good. Grazie mille, buongiorno. Andiamo. Sì. E allora, prima domanda, sei qui al posto di David, il tuo collega che si è preso il cattivo tempo, tu invece sei venuto a goderti il bel tempo? E lui ha risposto, ovviamente scherzando, diciamo di sì, io sono venuto con un mio collega per la radio, mentre David era qui per la TV e forse tornerà alla fine della settimana prossima, ovviamente se Primož sarà più in alto del terzo posto attuale. E ad ogni modo gli ha detto Filippo, grazie per il sole. E Luca ha risposto: beh, è un piacere. Ad ogni modo, io sono arrivato giovedì, quindi un po' d'acqua me la sono presa anch'io, anche stamattina alla partenza, perché poi, sì, ieri mattina alla partenza pioveva, in effetti. È il tuo primo giro d'Italia? E lui ha risposto: sì, è il primo giro, ho fatto 3 tour e 3 vueltas, ma questo è il primo giro. Cosa ti è piaciuto e cosa no finora? La domanda. Lui ci ha pensato, vediamo, il cibo è buono, ovviamente, e il resto è difficile da dire. Diciamo che l'organizzazione è a un livello piuttosto alto, quindi c'è poco da lamentarsi fino ad ora, a parte il tempo meteorologico, però migliorerà, giusto? E a quel punto gli abbiamo chiesto di farci sentire un po' del suo italiano, nonostante sia il suo primo giro d'Italia. Lui ha detto: no, il mio italiano non è molto buono, avete sentito, grazie mille, andiamo, è la parola che forse conosce meglio in italiano. E quindi poi abbiamo continuato in inglese. You mentioned if Primož is gonna be in a better position, because now he's in the third position, he was not particularly brilliant today. What do you think, and do you think he can win this Giro at this point, looking at the situation now? Yeah, of course. I think he's the strongest guy in the whole peloton, and this week we will for sure see how it will go. But if everything will be just on the road, then I think Primož has the strongest legs, better than G, and better than, I don't know, João Almeida and so on. And I think the big opportunity, or how to say, something that's advantage for Jumbo-Visma, they had eight riders, seven plus Primož, and that should be a big advantage. Also, that's something that Primož said to me today at the start. It should be an opportunity and advantage in the last week. Managed to talk with him at the end of the stage also? Okay, did you ask him why he was so quiet today, maybe? Yeah, but you know, Primož, I was just trying to get to the rest day safely, and that's pretty much all what he said. And of course, he was talking about the weather, and that's it. What is the day you're expecting to be the day? Yeah, I also talked with Mark Riff of Jumbo-Visma, one of the head guys, as I can see. He mentioned Tuesday, Thursday, Friday and Saturday. So just 2 days that are not so hard to say. So not the rest day. No, not the rest day. Quindi hai detto poco fa, se Primož a fine giro sarà in una posizione più alta, pensi che possa vincerlo questo giro dopo quanto visto oggi? Sì, certo, penso che sia il più forte. Questa settimana vedremo, ma se tutto si deciderà sulla strada, quindi senza imprevisti di qualche tipo, lui ha certamente le gambe migliori, migliori di G, Geraint Thomas, di Almeida e di tutti gli altri. Penso che un grande vantaggio per lui e la sua squadra sia che Roglic ha ancora 7 compagni a disposizione, per quanto 3 o 4 di essi siano stati chiamati all'ultimo momento. È una cosa che mi ha detto proprio Primož al mattino, avere tutti questi compagni è un vantaggio e un'opportunità. Gli ho chiesto: hai parlato con lui anche dopo la tappa? Gli hai chiesto come mai è stato così tranquillo nell'arrivo verso Bergamo? E Luca ha risposto: sì, ci ho parlato, però insomma lo conoscete Primož, qui si è fatta una risata perché non dice tantissimo dopo le tappe Primož Roglič. Ha detto soltanto: il mio obiettivo era arrivare al giorno di riposo in sicurezza. Poi ha parlato del brutto tempo, insomma basta così. E Filippo gli ha chiesto: qual è il giorno che secondo te sarà il giorno per Roglic nella terza settimana? E Luca ha risposto: ho parlato con Mark Reef, uno dei capi della Jumbo-Visma, e lui ha risposto: martedì, giovedì, venerdì, sabato, sono tutti giorni buoni. Però non il giorno di riposo, forse, gli ha detto Filippo, e Luca ha risposto: no, il giorno di riposo non sarà decisivo. What's your podium of the Giro, if you would make a prediction now, just first, second, third? Yeah, let's just cut the first one right now, so and change the second one with the third one. So Primož first one, G, Geraint Thomas on the second, and João Almeida on the third. I got one very last question. Do you think that if Primož wins this Giro, this could be like the final high point of his career? I'm afraid yes, but I hope no. Because, you know, I also think if he wins Giro, that there might be a possibility that he will go to Tour. Okay. This year. Even if not, we all know that tour is something that he is missing and will be missing in his career, probably the last thing. So I hope that tour will be at some point the highlight of his career, but you know, he's Olympic champion, time trial, so hard to say, but I think tour, that's something that he would like to be this, his, yeah, the biggest success. Grazie mille Luca. Grazie. Ciao. E poi nell'ultimo blocco di questa intervista gli abbiamo chiesto quindi alla fine qual è il podio, il tuo podio del Giro, se dovessi fare una previsione ora. E lui ha risposto quello attuale, escludendo il primo, cioè Armirel, e scambiando secondo e terzo. Quindi Primož primo, Geraint Thomas secondo, Almeida terzo. E Filippo gli ha chiesto, pensi che se Primož vince il Giro questo sarà l'ultimo picco, l'ultimo highlight della sua carriera in termini di risultati? E Luca ha risposto, temo di sì, ma spero di no. Perché penso che se Roglic vincesse il Giro ci sia una possibilità che vada anche al Tour quest'anno. E comunque, anche se non dovesse andarci quest'anno, il Tour è qualcosa che a lui manca e mancherà, l'ultima cosa che forse gli manca. Quindi spero che prima o poi diventi il Tour de France il picco della sua carriera, perché insomma sì, lui è campione olimpico tra le altre cose, a cronometro. È difficile dire cosa sia il massimo in una carriera, però penso che a Primož piacerebbe fosse il Tour il più grande successo della sua carriera. Beh, l'anno prossimo può fare doppietta. Andare al Tour e poi fare le Olimpiadi a Parigi. Eh sì, giusto, una dopo l'altra. Attaccato. C'è questa il Tour non finisce a Parigi, ma insomma, ci sono i treni. Se lui... Non so se magari al Tour danno anche in premio delle card per le ferrovie francesi, le SNCF, può prendere il treno e andare a Parigi. Da Nizza a Parigi. Da Nizza a Parigi. Si potrebbe fare. Sei un ciclista professionista? Sei un ciclista amatoriale? Sei una persona semplice, che ama semplicemente andare in bicicletta? Allora avrai certamente bisogno del Bincio! Bincio! Il Bincio? E che cos'è? Il Bincio è uno strumento che aiuterà le tue pedalate e si adatta a ogni tipo di bicicletta! Ma come si presenta? Il Bincio ha la classica forma arrotondata, ma può anche essere appuntito, a seconda delle tue esigenze! Ma io non ho proprio capito a cosa serve! È semplice! Il Bincio aiuta te e tiene in buone condizioni il tuo mezzo a due ruote! Sì, ma cosa me ne faccio? Sento dello scetticismo! Allora hai proprio bisogno del Bincio! Bincio! Tutti i ciclisti lo usano! Ma lo voglio usare anch'io, ma non ho capito cosa me ne faccio! Questa è la prova che qualcosa manca nella tua vita! Compra il Bincio! Bincio! Vola sui pedali e risolvi i problemi in famiglia! Grazie al Bincio! Bincio! Risolveva anche i problemi in famiglia, me l'ero dimenticata questa cosa. Mentre lo scetticismo che sentiva il nostro narratore credo che sia rimasto, almeno in me è rimasto. Ma sai, all'inizio ce n'era di più, perché questa puntata si parla molto di tecnica delle biciclette e questo era veramente un momento vintage. Perché questo era il primo episodio, prima spot di sempre del Bincio, così che tanti che magari ci hanno raggiunto negli anni successivi o nelle ultime settimane all'ascolto si chiedono cosa sia il Bincio, finalmente si è chiarito. Sì, adesso adesso non hanno più dubbi e presto non avranno neanche più problemi in famiglia dopo essere passati al Bincio. E chissà se ha adottato per questo suo primo Giro d'Italia il Bincio, perché il Bincio è, credo, particolarmente suggerito per gli esordienti, perché credo aiuti chi, suggerito per tutti, però per un esordiente ancora di più. Stiamo parlando di Cristian Scaroni della Astana, corridore di 25 anni, bresciano, quindi siamo dalle parti di casa sua in questi giorni, sia oggi che domani alla partenza, e ci ha parlato Michele Pelacci e ascoltiamo questa chiacchierata con lui. Nome, cognome, squadra, partiamo con le domande facili. Cristian Scaroni, Astana, Kazakistan. Primo Giro d'Italia, come sta andando? Ma come primo Giro d'Italia diciamo che non sta andando male, ho fatto già qualche piazzamento, purtroppo ho beccato l'anno un po' più brutto per esordire, tanta acqua, tanto freddo, infatti maggior parte del gruppo è malato, io da 2 giorni sto un po' così così, speriamo di passare questi 2 o 3 giorni in modo che l'ultima settimana possiamo ritornare competitivi al massimo. Sei già andato in fuga, hai già un top 10, dici un po' che corridore sei. Sì, mi piace attaccare, sto un po' capendo come si va in fuga qua al Giro d'Italia, è un po' diverso dalle corse normali che si fanno. E a me piace attaccare, come ho già detto, sono un corridore da strappi e salite anche abbastanza lunghe e con un discreto spunto veloce. Ecco, ho già fatto 2 top 10 qua al Giro d'Italia, una a Campo Imperatore e una pochi giorni fa. Ho visto che sei tifoso del Milan. Sono tempi duri, eh? Sì, diciamo che l'Euro Derby ci ha un po' buttato giù. In campionato siamo lì lì per la lotta Champions, però dopo una vittoria in un campionato che non era aspettato, è normale che sia così. Con chi parli del Milan in squadra? Chi ha un altro cuore rosso-nero in Astana? Ma c'è Gianni Moscon, che è milanista, però il più sfegatato di tutti è il dottore, che però lui tifa Fiorentina. Però a noi piace parlare soprattutto di calcio, quindi ci confrontiamo, diciamo la nostra, e quindi parlo molto col dottore, ecco. Chi ne sa di più, chi ne sa di meno? Chi è che non sa proprio niente di calcio, ma ne parla come se fosse un esperto? C'è qualcuno? Ma in squadra tendenzialmente chi non ne sa non ne parla, ecco, non fa figuracce. Però persone come Velasco segue un po' la Fiorentina, però la segue solo perché al papà tifoso e quindi però non ne sa di calcio come neanche Battistella, ecco. Ho visto dai tuoi social che il tuo fan club ti ha soprannominato la Volpe di Botticino, come mai? Perché Botticino è un paese che è sotto una montagna ed è risaputo che sopra al monte ci sono un sacco di volpi, sono state avvistate tante volpi e da lì è nato un po' il soprannome, ecco, un po' così, ecco. Botticino sera o Botticino mattina? Botticino sera, dove tramonta il sole, ecco, quindi sì, c'è una bella differenza. Non è la volpe, è il diavolo della Tasmania, lascia sempre tutte le robe in giro, è un casino. Siete compagni di stanza con Velasco? Sì, esatto, ormai da anni sia in Gazprom che qua in Astana condividiamo la stanza e effettivamente c'ha ragione, non sono il ragazzo più ordinato della squadra. Ognuno ha i suoi pregi e i suoi difetti, questo è un mio difetto. L'ultima è questa, perché io ho pedalato tra le cave lì a Botticino, è bellissimo, tu lo fai mai spesso, sentieri gravel più che altro, no? Sì, d'inverno con la mountain bike spesso giro lì tra i monti di Botticino, dove ci sono appunto anche le cave e ci sono tantissimi sentieri, il problema è conoscerli. Io fortunatamente conosco persone che lo fanno come sport, quindi ho conosciuto negli anni tanti sentieri, è davvero bellissimo andarci in questi sentieri. E poi è anche producente dal punto di vista della guida, che ci può dare qualcosa in più su strada. Cristian, gentilissimo, ultima cosa, scegli tra un soprannome definitivo, Volpe di Botticino o Diavolo della Tasmania? Quello che volete voi, per me è indifferente, a me piace anche il Diavolo della Tasmania, non è male perché mi ricorda Taz, quindi se volete cambiarmelo va anche bene, ecco, non è male. Grazie, gentilissimo. Grazie. Dunque, lasciamo questa ennesima scelta ai nostri ascoltatori anche sul soprannome di Cristian Scaroni, che è Volpe di Botticino. Volpe di Botticino. O Diavolo della Tasmania, esatto. Però geograficamente non torna. Non c'è grande vicinanza. Deve essere Diavolo della Tasmania di Botticino. O potremmo proporre al comune di Botticino, qua vicino, possiamo andare dopo che abbiamo mangiato, che potrebbero gemellarsi con Hobart. In Tasmania, può essere. No, tra l'altro il comune magari di Botticino, sì, che è diventato il mio comune preferito in tutta Italia, perché ha le frazioni di Botticino sera e Botticino mattina. È favoloso. Mi ricorda un po' Tramonti di sopra e Tramonti di mezzo. Potrebbero gemellarsi anche con Tramonti, fare un grande triangolare Botticino Tramonti Hobart. Però un aggiornamento sui soprannomi, perché avevamo lanciato la richiesta, il sondaggio per un soprannome da dare a Derek G. Ieri ne è arrivato uno, forse un paio, però uno mi è piaciuto molto, che è BG. Però dovrebbe andare a correre nella Jumbo. L'ape non è un uccello, sappiamo che Derek G è un bird watcher, però comunque vola, quindi esatto. ci salviamo in qualche modo. aggiornamento sui soprannomi riguarda anche un suggerimento che ci ha dato Stefano, nostro ascoltatore. Non riguarda G, anche se dice so che il soprannome serve a G, per cui sa bene che il compito è un altro, però dice che trova che Edoardo Affini, che abbiamo sentito ieri, abbia una voce da commendatore d'altri tempi, molto composta, quasi altera, tolti più che ragionevoli francesismi dell'intervista, e per cui suggerisce il commendatore Affini. Il commendatore bello, Affini. Molto bello, glielo, il commendatore glielo Affini, glielo andremo a dire. Ma passiamo alla seconda chiacchierata di questa giornata di riposo. Anche oggi abbiamo voluto farvi conoscere meglio dei corridori. Il secondo è il primo corridore che io ho visto in questo Giro d'Italia, perché è stato il primo corridore a prendere il via nella cronometro di Ortona, sì, e lungo la pista ciclabile dei Trabocchi. Si tratta di Laurens Heuss della Intermarché. E adesso la pronuncia ce la facciamo dire da lui. Tra poco la sentirete subito, così non abbiamo altri guai col suo nome. Ragazzo veramente molto simpatico, anche forte. Ieri è arrivato ottavo, era in fuga, e lo vedremo secondo me spesso nell'ultima settimana, essendo lui un minutissimo e agilissimo scalatore. Ascoltiamo la prima parte della chiacchierata con lui. Laurens Heuss, 24 years old, Intermarché Circuit Santé Pro Cycling Team. Ciao Laurens, come stai? For the moment good. I suffered already a lot this Giro, but for the moment I feel okay and I hope to continue like this. We see that you are having some fun, putting on some show in the mornings at the podium, so you are also enjoying the Giro. For the moment it's really nice to be here. I enjoy every day, and for me it was already a big honor to start this race, so I make the best out of it. When did you hear the first time the song, Sarà perché ti amo? I think should be on TikTok. And then I googled it, and then I listened it every day. Every day, here on the bus or in the room? Most of time at home. At home? Yes. Okay, so when this happened the first time? I think last year. Last year? Yeah. E allora, Laurens Heuss, credo di aver capito. Come stai? Prima domanda. Per ora bene, ho sofferto molto in questo giro, però adesso sto a posto, sono ok e spero che continui così. Io gli ho chiesto, abbiamo visto che nonostante tutto, nonostante la stanchezza, ti stai divertendo, soprattutto al mattino sul podio delle presentazioni. Forse l'avete visto in qualche video, lui un giorno ha cantato Sarà perché ti amo, ha presentato i suoi compagni, ha imitato Bonen un'altra mattina. E lui ha risposto, sì, assolutamente bello essere qui, mi godo ogni giorno, per me è un onore partecipare a questa corsa e cerco di tirarne fuori sempre il massimo. A quel punto gli ho chiesto quando hai ascoltato per la prima volta la canzone Sarà perché ti amo, che sta diventando un po' l'inno non ufficiale di questo Giro d'Italia e del ciclismo in generale, sì. Perché anche Wout van Aert l'altro giorno ha condiviso una storia Instagram con questa canzone. Sorprendentemente. Sì, abbastanza. È vero che siamo in tema, no, siamo ancora sulla scia dell'Eurovision Song Contest, e ricchi e poveri. Sanremo comunque un luogo importante per il ciclismo, però insomma non è proprio un hit di no, del 2023. No. E comunque Heuss ha risposto, penso che la prima volta che l'ho sentita sia stato su TikTok, poi l'ho cercata su Google e da allora l'ascolto ogni giorno. E gli ho chiesto, ogni giorno dove? Sul bus della squadra, in camera? E lui ha risposto, a casa il più delle volte. Ma quando la prima volta? In assoluto l'anno scorso. Quindi è un anno che Heuss ascolta tutti i giorni Sarà perché ti amo. E pensa, la cosa incredibile è che lui alla fine di ogni tappa torna a casa in Belgio ad ascoltare Sarà perché ti amo e poi torna per la partenza del giorno dopo. And do you know any Italian words? Do you know how to say something? Io imparo l'italiano, ma not so fast. How are you learning it? Thanks to Simone Petilli. Okay, what did he teach you? For the moment, not so much, because I didn't do so many races with him. We were in Sierra together, and I wanted to learn, but every day we were quite busy with training and recovering. So, and we were also focused on the Giro, so I didn't do so much Italian lessons yet. Are you able to imitate his Italian or his voice? I know you also do some imitations. I can imitate his English. Okay, let's do it. No, wait, I need to think. Eh? Yes, yes, I think today will be an art fight. Let's talk a little bit more about this Giro, because it's your first Grand Tour. What have you learned? It can rain a lot in Italy. Yeah. I didn't know this. You were expecting sun or...? A bit more, yes. Yeah, more than we had now, yeah. Seconda parte dell'intervista. Conosci qualche parola in italiano? E lui ha detto, in italiano, io imparo l'italiano. però non così veloce. Come lo sta imparando? Gli ho chiesto grazie a Simone Petilli. Simone Petilli, suo compagno di squadra, che purtroppo non è più al Giro. Che cosa ti ha insegnato, Simone? Gli ho chiesto e Hus ha risposto: finora non molto, a dire il vero, perché non abbiamo corso tanto insieme. Eravamo insieme nel camp Sierra Nevada e gli ho detto che volevo imparare l'italiano. Però poi ogni giorno eravamo presi dagli allenamenti, dal recupero, la preparazione per il Giro e così via. E insomma, non ho imparato granché finora. E a questo punto gli ho chiesto: ma sai imitarlo, Petilli? So che sei bravo nelle imitazioni. E Hus ha risposto: beh, posso imitare il suo inglese, ma devo pensarci un attimo. Poi avete sentito, ci ha pensato e avete ascoltato il Today will be a hard fight con la voce e l'inglese di Simone Petilli. Grandi risate. E però poi gli ho chiesto: parliamo un altro pochino del Giro d'Italia, il tuo primo grande giro, che cosa hai imparato finora? E lui, sempre sulla scia della simpatia, ha risposto: ho imparato che poi in Italia può piovere molto, ed è una cosa che non sapevo. E ti aspettavi più sole, quindi? Beh, ha risposto lui, sì, un po' di più almeno di quello che stiamo avendo finora. Have you been talking or speaking to Tom Pidcock during the Giro? Not yet. It's last time I hear him was after the classics. But I was on Sierra Nevada and he bought a home 5k away from me and he asked me to train with him. And I was unfortunately on Sierra, so I didn't saw him since January. But I haven't been at home since January, so. So you train together, you also hang out together sometimes? More in the past, yeah. In the past we shared an apartment in Girona, thanks to Kurt Bogaerts. Also we were with Jake Stewart, and then me, Tom. The rest I cannot really remember. So then was 3-4 years ago, we had a really good time together. And we, in the first time he arrived at my home, my mother was cooking potatoes and he was putting, without saying a word to my parents, he went straight to the kitchen, put on some salt on the potatoes, and he said, Wednesday on 9 o'clock, or I will have dinner here. And two days after, he was there to have dinner with my family. So first time when he came in was really really special. E poi abbiamo scoperto che Laurens Hus è un grande amico, è amico di Tom Pidcock, e quindi gli ho chiesto se ultimamente l'ha sentito durante il Giro. Lui ha risposto no, non ancora, ci siamo sentiti l'ultima volta per telefono dopo le classiche. Lui ha preso casa a 5 km da casa mia ad Andorra, però io non lo vedo da gennaio, perché è da gennaio che io non torno a casa. E gli ho chiesto, oltre ad allenarvi, passate anche il vostro tempo libero insieme? E Hus ha detto, nel passato un po' di più, perché a Girona vivevamo insieme, nello stesso appartamento, noi due con Jake Stewart della Groupama. È stato un bel periodo. Mi ricordo in particolare 3 anni fa, la prima volta che Tom Pidcock è arrivato a casa mia, c'era mia mamma che preparava delle patate. Tom è arrivato e senza farsi vedere dai miei è andato in cucina ad aggiungere il sale alle patate e ci ha detto, mercoledì sera alle 9 verrò qui per cena. E 2 giorni dopo era lì a cenare con la mia famiglia. E così è stata la prima volta tra me e Tom Pidcock che è stata speciale, diciamo così. And I wanted to ask you also one thing. There is one Laurens and one Laurens in your team, right? It's Rex. How do you call each other and how do your teammates distinguish yourselves? Most of the time they call me Huske, so it's my small nickname, and then Laurens, Rex we call, or Laurens, oftewel Rex, so. Most of the time with the last name, because also in the radio we have Lorenzo Rota, Laurens Rex, and Laurens Hurst, so sometimes it's complicated. who makes the most noise between yourself and Laurens? I think Rex, sure. Yeah. I was looking at your Strava. I was looking at your Strava. And I could see one of your mottos, if you can say that, is Vamos Colombia. Why is that? What is the meaning? Because our teammate Lorenzo Rota always says that Colombia is the best country in the world, so that's why we always say Vamos Colombia. Grazie mille, Laurens. Prego. Ultimo blocco di questa intervista. Un'altra cosa: nella tua squadra c'è un Laurens, tu, e un Laurens Rex. Come vi chiamate a vicenda e come i vostri compagni fanno a distinguervi quando vi chiamano in causa? Allora, il più delle volte ha risposto Laurens Hus, io vengo chiamato Husk, che è il mio nomignolo, mentre Laurens è semplicemente Rex. Anche nelle comunicazioni radio lo chiamano Rex, perché poi in squadra noi abbiamo anche un Lorenzo, Lorenzo Rota, quindi c'è Lorenzo, Lawrence, Lawrence, e può essere veramente complicato a volte. E gli ho chiesto, e tra tutti questi chi fa più casino in squadra e sul bus? Rex, di sicuro. A quel punto è intervenuto Michele, il nostro Michele Pelacci, perché lui guarda, tende a guardare e controllare i profili Strava dei corridori, e gli ha detto a Us, controllando il tuo Strava ho visto che uno dei motti ricorrenti che usi è Vamos Colombia. In effetti più di una volta Us lo allega alle sue pedalate. Perché? Perché Vamos Colombia? E Us ha risposto perché Lorenzo Rota dice sempre che la Colombia è il più bel paese del mondo. E quindi questo è un po' il motivo per cui in squadra spesso e volentieri ripetiamo Vamos Colombia. Vamos Colombia, bellissimo. E anche un invito a leggere Colombia Espasión. Dovremmo portare anche a Lawrence Us una copia o di a Lorenzo Espasión, Rota. Così, così okay. Per studiare l'italiano è una bella sfida. Dunque, in questa puntata che registriamo prima di andare a pranzo, per cui abbiamo sempre così, la preoccupazione alimentare ogni volta che registriamo, stavolta del pranzo e non della cena, abbiamo parlato con i nostri compagni di Sala Stampa e di Transenna, come sono i giornalisti, abbiamo parlato con i nostri più o meno compagni di strada, come sono i corridori, non ci passiamo tanto tempo insieme, ma qualcosa ogni giorno cerchiamo sempre di farlo. Vogliamo dare spazio anche oggi ai nostri compagni di viaggio, ovvero a Shimano, però non parliamo della squadra tecnica, dell'assistenza tecnica di Shimano oggi, ma parliamo di un'occasione particolare. Allora, quest'oggi nella cucina di nonna Bettina siamo con un ospite speciale, perché noi vi abbiamo raccontato tanto di come ci siamo mossi con la squadra di Shimano del gruppo di servizi di assistenza tecnica neutrale, ma Shimano, come ben potete immaginare, è un mondo ben più ampio, e questo è un giro particolare per Shimano, per cui siamo lieti di avere con noi Marco Cittadini. Mi occupo di pubbliche relazioni, di comunicazione e di sport marketing in Shimano Italia. E hai detto di essere emozionatissimo di essere ospite di Geronimo. Sono onestamente sorpreso, entusiasta, perché ho conosciuto delle persone, quindi il lato umano di questo lavoro meraviglioso, che è molto simile all'idea della radio, che covo da tempo, e le modalità con cui raccontate il ciclismo e lo portate nelle orecchie della gente. Allora Marco, noi siamo qui con te perché quest'anno non è il compleanno di Shimano, che è stato il centenario recentemente. Quando lo è scorso stato... anno? Lo scorso, no, 2021, non è vero, hai sbagliato. No, oddio, penso di essere rimasto bloccato nel 22, questo è un qualcosa di devastante. Hai ragione, l'azienda è nata nel 1921 e quindi... Facendo le katane, ricordiamola questa cosa, perché non tutti lo sanno che Shimano nasce così, come versione Kill Bill. Non proprio, però c'è un fondo di verità, nel senso che la in cui viene impiantata l'azienda nel 1921 è proprio quella di Sakai, che è famosa per quella tradizione nella lavorazione del metallo che poi ha permesso nell'immaginario collettivo di cementarsi attorno a dei prodotti importanti e riconoscibili come le katane, poi magnificate da produzioni cinematografiche di cui Kill Bill è solo uno dei tanti. 50 anni fa, in casa Shimano, quando ormai da un po' si facevano componenti per le biciclette, c'è stata un'idea che ha avuto un discreto successo ed è quello che stiamo festeggiando. Esattamente, perché poi a stringere arriviamo alle celebrazioni di cui parlavi, il centenario 2 anni fa. In realtà, guardando alla storia più recente, era il 1973 e quindi esattamente 50 anni, stavolta non commetterò errori, nasceva il gruppo di componenti che avrebbe contribuito in modo fondamentale e significativo a definire i contorni del ciclismo, accompagnandolo alla modernità dei giorni nostri. Parliamo del Dura-Ace. Che vuol dire? Il miglior... Questa è bellissima. Eh sì, perché c'è tanto Giappone poi in questo. Dura-Ace vuol dire il miglior duralluminio, dove dura è duralluminium, che è un processo di lavorazione dell'alluminio che lo rende molto capace, quindi molto resistente. ace, come asso, il quindi miglior. L'asso del duralluminio. È bellissimo. È bellissimo. Il fatto che sia un asso è testimoniato da Visnocciolo. 44 grandi giri vinti, di cui 16 giri d'Italia. L'anno scorso tutti e tre. Giro, Tour e Vuelta. Al Giro l'anno scorso 19 tappe su 21 vinte da corridori che montavano Dura Ace. 369 vittorie di tappa al Giro fino a quest'anno. Non so se la... Confesso di non avere un conto aggiornato con le tappe del Giro di quest'anno. Totale 11.540 vittorie totali. Era il 1988... quando proprio il Giro d'Italia, ed è il motivo per cui oggi siamo molto orgogliosi di celebrare questa ricorrenza proprio al Giro d'Italia, perché era 35 anni fa, nell'88, Andy Hampstein, in una edizione del Giro particolarmente da tregenda. E Michele, potresti raccontare qualcosa di quel Giro, perché poi il tempo è tornato in cronaca anche nell'edizione 2023, quindi quella che state commentando tutti i giorni. Ecco, Andy Hampstein nell'88 vinse il primo Grand Tour con componenti di serie Durace. Era il 7004, per gli appassionati che ci stanno ascoltando, leve del cambio sul tubo obliquo e l'indicizzazione Shimano Index System, cioè la possibilità di passare immediatamente al rapporto selezionato senza andarlo a cercare in modo analogico. Quello fu una delle tante innovazioni che poi hanno cementato l'immagine di Shimano all'interno del gruppo e nel mondo. La tappa più famosa che tutti ricordano è quel Gavia, la tappa finiva a Bormio, quella tappa del Gavia. Avete presente, adesso quando avete tempo e possibilità di farlo, aprite l'icona di Geronimo e vedete il nostro bisonte che fa da appunto copertina a Geronimo con degli occhiali. Quegli occhiali sono gli stessi occhiali che Hampstein portò in quel giro. Se non sbaglio, Oakley Razor. Mi fido, può essere bellissimi. Occhiali che vestiva anche nella tappa del Selvino che vinse. Selvino, siamo stati ieri, ne abbiamo parlato anche prima, nell'88 ci fu al Giro d'Italia una tappa che finiva lì e Hampstein vinse il Giro, quindi la storia del bisonte di Geronimo è legata anche al Durace. E allora abbiamo parlato di Selvino, di Durace, ieri al passaggio sul Selvino, l'avrete visto tutti in televisione, la strada era colorata completamente, con una lunga striscia di street art dedicata proprio a questa ricorrenza. Per scoprire la storia di questa scritta che abbiamo visto tutti quanti in televisione, oggi abbiamo incontrato Nicole e Willem, che in italiano si dice Guillermo, quasi Guglielmo. Guglielmo, siete? Allora, io sono la responsabile del digital in Shimano. E invece il mio collega, che a quale appunto do io la presentazione, è il responsabile delle campagne, quindi tutta la parte di comunicazione relativa alle campagne digitali in Shimano Europa, quindi più su. Voi due ci raccontate come avete trascorso la notte sul Selvino? Beh, più di una notte in realtà. Più di una notte, perché l'intenzione era quella di iniziare questa attivazione da giovedì. Poi abbiamo avuto tutti i giorni da giovedì, venerdì, di pioggia, diluvio universale. E questo chi ha visto il Giro credo se ne sia accorto, che ha piovuto un po'. Quest'anno devo sì. dire che è stato così un po' dappertutto. Ci siamo svegliati la notte, la mattina anzi, della domenica, verso le 3, con l'intenzione appunto di andare e fare, perché stavamo aspettando comunque da 3 giorni. Le previsioni non davano più pioggia, quindi eravamo molto positivi. Siamo arrivati sul posto, quindi pronti per asciugare il terreno, e ha iniziato di nuovo a piovere. Ma siete arrivati voi e gli artisti che hanno fatto quest'opera, allora, che si chiamano, nominiamoli. Esatto, allora avevamo un bel gruppo di lavoro, devo dire. Eravamo appunto noi come Shimano e poi c'era questo gruppo degli artisti, quindi i veri protagonisti poi dell'attivazione, Guilty 76, che sono un gruppo di artisti, in realtà di super fan del ciclismo da anni, che si occupano appunto di fare queste opere di street art. Hanno iniziato una decina d'anni fa, quando durante una tappa del Tour de France erano sulla montagna e dovevano aspettare 5-6 ore prima che passasse insomma il tour, e hanno detto: cosa facciamo in queste 5-6 ore? Mettiamoci a disegnare. Esatto, mettiamoci a disegnare. Da lì è nato tutto, adesso sono un gruppo abbastanza, insomma, riconosciuto e anche affiatato. Eravamo appunto il gruppo di artisti, noi, e quella mattina appunto ci siamo guardati in faccia e abbiamo detto ok, basta, abbiamo aspettato 3 giorni, non ce l'abbiamo fatta, dovremo abbandonare. Poi dopo 10 minuti ha smesso di piovere, ci siamo guardati e abbiamo detto cosa facciamo? Siamo andati a recuperare tramite alcuni amici del comune, che nel frattempo abbiamo conosciuto gente del paese, delle bombole a gas con la fiamma. E abbiamo iniziato ad asciugare l'asfalto durante 2 per 2 ore, soltanto che è stato lunghissimo, perché per asciugare un pezzettino, un 20 centimetri, ci abbiamo messo, penso, un buon quarto d'ora a 20 centimetri. Quindi, e pian piano siamo riusciti, insomma, a realizzarla. Non è stato esattamente come volevamo, cioè con la stessa lunghezza, perché ovviamente abbiamo dovuto prendere delle decisioni e valutare una soluzione di backup, perché il problema del colore è che nel momento in cui il terreno è bagnato non prende, quindi anche se piove dopo, quando è asciugato non è un problema, però nel momento in cui si deve eseguire è necessario che il terreno sia asciutto. Quindi un buon motivo per andare a piazzarsi la notte ad aspettare le corse, che puoi vedere anche gente con delle bombole che sparano fuoco e asciugano la strada, che è una cosa che non capita tutti i giorni. Grazie mille di questo racconto. Guglielmo, un saluto in italiano. Grazie mille. Perfetto. C'è una cosa che mi stupì. Io ho letto un po' di materiale che è circolato su questa occasione ed è il fatto, cioè, noto molto come Shimano ci tenga molto a sottolineare l'ispirazione, a sottolineare l'uso della bicicletta, che non è solo quello delle grandi vittorie. Prima abbiamo snocciolato grandi vittorie, ma poi sappiamo che, permettimi la banalità, però il cambio Shimano è quello che vediamo anche nelle televendite di Mondial Casa, delle pentole o non so che cos'altro. E pertinente. Mi racconti come convivono queste due visioni di un mondo di bicicletta e di ciclismo per tutti, anche delle basi più basi alle vittorie più importanti del ciclismo mondiale, che tra l'altro non ho specificato, abbiamo snocciolato le vittorie di ciclismo professionistico maschile su strada, perché poi se ampliamo non ne usciamo più. Il mondo visto dal Giappone è particolare. E Shimano, nella fattispecie, ha una visione molto particolare delle cose della vita. Considerate che la mission di questa azienda non è, per il tramite dei propri prodotti, farvi conquistare il mondo e vincere. No, la mission aziendale è closer to nature, closer to people, dove è evidente l'obiettivo, per il tramite dei propri prodotti di qualunque categoria, di invitare la gente ad abbracciare uno stile di vita sano, condotto all'aperto. E la bicicletta, insieme alla pesca, che è l'altro segmento di business di Shimano, è uno sport inclusivo. Ed è il motivo per cui il DuraAce è soltanto la punta di diamante di un'offerta, che ha chiaramente nel DuraAce la massima espressione della ricerca e sviluppo, che è contestualizzata al raggiungimento delle massime prestazioni sportive. Ma, come avviene in altre categorie, quella tecnologia e quella attenzione viene restituita a cascata su tutta la famiglia di componenti che mettono in bicicletta il mondo. Di DuraAce, di Shimano, se ne parlerà anche nel prossimo numero di Al Vento, perché voi due che ho davanti a me, Marco e Michele Pelacci, siete stati... Dove siete stati? Sono stato... Marco si era già stato. Io, per la prima volta, sono andato a Valkenburg, che è un posto molto piccolino e collinare, diciamo una zona montuosa quasi dell'Olanda, anche se fa ridere perché siamo a 200 metri comunque sul livello del mare, nel sud dell'Olanda. Limburgo. Ti vedevo con lo sguardo perso nella geografia. Geografia dei Paesi Bassi, abbastanza, dove c'è lo Shimano Experience Center, al piede del Kauberg, la famosa collina dell'Amstel Gold Race, dove Marco, insomma, ci ha fatto un po' da padrone di casa, abbiamo visto tante cose, e il pezzo che ho scritto, quello l'ho finito, adesso devo farne un altro, ma quello l'ho finito, per il prossimo numero di Al Vento, parte dall'inizio proprio della storia della metallurgia in Giappone. Passa per esempio dai mondiali del 73, Barcellona 73, quando Freddy Mertens con Shimano DuraAce, il primo anno un po' che Shimano DuraAce arrivò in Europa, la storia viene raccontata meglio, va molto vicino a vincere su Gimondi. E c'è una storia legata anche all'altro famoso produttore di componenti dell'epoca, che non voleva assolutamente che Shimano arrivasse a vincere. Insomma, fatto sta che a Valkenburg c'è questo centro incredibile, perché è palestra, è hotel, è ristoranti, è museo, è ciclofficina, cycling caffè, esatto. Un posto veramente magico, in cui Citta ha avuto il piacere di accompagnarci appunto un paio di giorni, e è uscita una bella storia, secondo me, una storia che non sapevo per niente, che ho investigato, sulla quale ho investigato abbastanza, e ci ho messo parecchio. Il pezzo sarà molto lungo, e se avete il piacere di leggerlo mi farete piacere anche a me. No, hai investigato tanto, talmente tanto che sì. La prima sera di questo Giro d'Italia arriviamo alla cena al ristorante, ci sediamo al tavolo con Pietro Algeri e Michele racconta questa storia della guerra tra componenti al mondiale del 73 e Pietro Algeri, non proprio l'ultima memoria del ciclismo, non la sapeva, si è alzato a verificare, e quindi Pelacci ha iniziato così questo Giro d'Italia, Pelacci 1 Algeri 0, poi dopo è stato rimontato e superato, ma è stato un ottimo inizio, hai dato tutto sulla partenza. Ieri siamo andati anche noi all'evento che Shimano ha tenuto a bordo strada a bordo traguardo della tappa di Bergamo. C'era un sacco di gente ospite, non stiamo ad approfondire adesso quanta gente ci fosse e chi fosse. Tra questi abbiamo incontrato anche Sonny Colbrelli, che è tornato al Giro d'Italia in un'altra veste. Ci salutiamo con Marco e con Shimano con questo piccolo intervento di Sonny Colbrelli. Marco, vuoi lasciarci un saluto, non so, in giapponese? O come non, vuoi? Non avrei idea di cosa dire. E allora in colleferrese. Bella per tutti, è stato un piacere enorme incrociare le nostre strade. E vi auguro un buon lavoro sulle strade del Giro. Grazie. No, la birra in mano per i nostri ascoltatori e per noi è solo un bene. Ma ci vuole, perché dopo 60 km, oggi non ho attaccato la batteria, devo un po' integrare con l'alcol. È un integratore ex post. Sì, ci vuole, sono maltodestrine, bisogna riempire la gamba. Sonny Colbrelli al Giro d'Italia, in un'altra veste, chiaramente. Com'è il Giro d'Italia visto da questa parte? Ma sai, è sicuramente un'altra veste. Ti dico che ogni giorno c'è una grande emozione, perché passo sotto striscione dell'arrivo, passiamo sotto l'ultimo chilometro e la gente mi tifa ancora, no? E rivedo tutti gli anni che ho fatto da professionista e tutti gli anni che ho fatto Giro d'Italia. Però dai, la vita, come ho sempre detto, va avanti, sono qua in un'altra veste e devo essere contento. Anche perché siamo qui ospiti di Shimano. Shimano nel mondo vuol dire cambio. Tu hai cambiato vita completamente, però per te, per cambiare vita, non avevi un cambio Shimano a disposizione. Qual è stato lo strumento che ti ha aiutato nel cambiare vita? Ma adesso per cambiare vita c'è una macchinetta che non è Shimano dentro nel corpo, però dai, parte gli scherzi, per cambiare vita mi ha dato un cambio le persone davvero importanti nella mia vita, che mi hanno sempre assistito, per il Sonny che era, no? Perché il Sonny che aveva vinto la Parigi-Roubaix, questa qua è la cosa più importante che mi ha fatto, diciamo, andare avanti dopo quello che mi è successo. Chi vince il Giro e per chi fai il tifo? Faccio il tifo, faccio tipo per Damiano Caruso, mio grande amico. mio grande amico, ci sentiamo ogni giorno, neanche stamattina mi ha chiamato. È un bel giro, bello aperto. Diciamo che fino ad oggi non abbiamo visto grandi attacchi. Speriamo che oggi, anche se penso che arrivi la fuga qua a Bergamo, spero che qualcuno inizi a muovere un po' le acque, perché non si è mai visto un Giro d'Italia arrivare all'ultima settimana e nessuno prende l'iniziativa di attaccare, però sai, è facile dire Roglic, io spero in Damiano. Ultimissima, la tappa del Bondone parte dalle tue parti, se mi dici in tre parole come descrivi questa tappa e i consigli di due posti dove fermarsi a mangiare e a bere o dove c'è un bel panorama lungo il percorso di tappa. Beh, guarda, io se ero nel gruppo prima di partire facevo segno della croce in una tappa del genere, perché è una tappa davvero, davvero, davvero dura, però per me è una grande emozione perché parte da casa mia, dall'estate dove mi sono allenato, dove mi alleno ancora ad oggi. Diciamo che un bel posto da fermarsi giù sul lago a Barbarano, che è il bar dove ci sono tutte le mie foto, e lì c'è da mangiare e bere a volontà, diciamo. Grazie mille, Sonny, grazie. In bocca al lupo. Grazie. E così Sonny Colbrelli ci proietta verso la tappa di domani, perché anche quest'anno, mannaggia, Mauro Vegni, te possino, dopo il giorno di riposo non c'è un altro giorno di riposo, come farei io sempre al Giro d'Italia. No, due consecutivi. Io farei 10 giorni di riposo, una tappa e 10 giorni di riposo. Sai, se per esempio si risolverebbe il problema dell'attendismo, di tutte queste polemiche, certo, le avremmo risolte. Le avremmo sicuramente risolte, ma in attesa di fermarci alla località che non ricordo come si chiama. Barbarano, che ci ha suggerito Sonny Colbrelli, guardiamo anche all'aspetto, come al solito, un po' più tecnico, altimetrico, anzi, della tappa di domani, con Michele Pelacci. Sono oltre 5.000 metri di dislivello domani, oltre 200 km, la tappa di domani, forse la più dura di tutto quanto il giro. Addirittura. Se accade in un martedì, come l'anno scorso, una tappa durissima, subito dopo il secondo giorno di riposo, l'anno scorso fu tappa del Mortirolo, e quest'anno c'è una tappa del Basso Trentino a nord del Lago di Garda, si costeggia il Lago di Garda nella sua parte, sua sponda bresciana nella prima parte, poi si comincia a salire veramente in modo bellissimo, su salite molto toste come Santa Barbara, prima categoria, come Serrada, seconda categoria, si arriva al Deno già dopo 180 circa chilometri di gara, e lì comincia la salita mitica, forse una delle salite mitiche del Giro d'Italia. Se non è mitico il Bondone. E ho detto la salita mitica. Non è la più mitica di sempre, però è una delle più mitiche di sempre. Il Monte Bondone, con tutta la storia che si porta dietro, si affronta il versante che appunto dal Deno porta a Garniga Terme. Sarà un finale in salita, sarà un finale durissimo. Il giorno di riposo, si sa, a seconda di come va la tappa, può aver giovato, oppure può essere stato, no, quello che rende le gambe legnose. Però sarà una tappa bella, domani nessuno si può nascondere. Sì, sul mito del Monte Bondone, tra l'altro, invitiamo i nostri ascoltatori ad ascoltare la puntata del podcast di Al Vento, questo stesso podcast che adesso si chiama Gironimo, ma normalmente si chiama Parole al Vento, realizzata con Marco Pastonesi, uscita poco prima del giro, la trovate subito prima di Gironimo. Tornando a noi, domani... Eh sì, è arrivato il momento di tirare farsi fuori il segno della croce, come dice Sonny Colbrelli. Sì. Di tirare fuori i nomi. È dura, perché sì, domani tutto sta nel vedere... No, non tutto, ma tanto starà nel vedere come escono le gambe dal giorno di riposo. Per cui, non so, dobbiamo fare dei pronostici anche stavolta. Mi sa di sì. E allora, guarda, io domani dico che non arriva la fuga e che vince Gerasimo Tommaso. Addirittura. Non l'avrei detto, pronostico abbastanza a sorpresa. Michele, invece, vedo che ha aperto una pagina dove c'è l'ultima volta che si è arrivati sul Bondone al Giro del Trentino del 2014 e vinse Landa. Però ti do questa notizia, Michele Landa non è presente al via di questo giro, nemmeno Menchis che arrivò secondo, nemmeno Pellizzotti c'è, arrivò terzo quella volta, ma adesso è su una ammiraglia, quindi mi sa che non ci aiuterà però, molto. Cioè in ammiraglia può andare molto più forte degli altri. Sì, cioè, quindi il favorito va in fuga, è in Franco ammiraglia. Pellizzotti per la tappa di domani, no Michele, sentiamo un po'. Chissà che non sia un indizio per la Bahrain Victorious, no, secondo me domani vince João Almeida. Ah. E l'ho visto frizzantino sulla boccola, l'ultimo passaggio, vero, a Bergamo, vero, vero. È in forma, è una salita lunga, quindi magari si adatta alle sue caratteristiche, non durissima peraltro nella parte finale. Secondo me João Almeida domani mette, diciamo, un'ipoteca su un gradino nel podio perlomeno. Ah, ok, che secondo me già, nel senso che a netto di imprevisti, difficile togliere un posto del podio a João Almeida, certo c'è da capire quale dei tre, e c'è una bella differenza, anche secondo me domani non arriva la fuga, è una tappa in cui se la giocano gli uomini di classifica, però non secondo me i primissimi, cioè non Armirail. Non Armirail, qualcuno che insegue tipo oltre i tre minuti, secondo me Eddie Dunbar è un buon nome per domani, anche perché abbiamo parlato con un giornalista irlandese in apertura, Barry Ryan. Chissà che non vinca un irlandese domani al Bondone. Però la domanda a questo punto è: la maglia rosa rimane a Bruno Armirai? La perde domani? Domani la perde. Temo che la perda, ma che ne so, magari invece vanno in fuga Armirail e Thomas e arrivano con 10 minuti su tutti gli altri e la maglia resta ad Armirail. Quindi sarebbe tappa a Thomas e maglia ancora, sì, Armirail. Il pronostico? Armirail Michele concede la tappa a Thomas, concede la tappa da sovrano Thomas del Giro d'Italia. Michele, invece tu hai detto Almeida la tappa e la maglia rosa chi la veste domani al termine della trazione? Thomas. Thomas. E io invece dico... sì, no, io dico, faccio una cosa diversa, dico maglia a Roglic e tappa a Dunbar, no, con Thomas che non crolla ma perde qualche secondo, tipo 10, 15, 20 secondi da Roglic. Ah, pensavo per gli abbuoni Roglic. No, no, no, proprio con un attacco nel finale gli dà 15, 20 secondi. Secondo me domani non ci saranno grandi distacchi, però... c'hai tutta la tappa in testa. Sì, sì, sì, non so. Rubio come si piazza? Ecco, Rubio è Rubio 14esimo. Domani, Rubio è a 5 minuti e 29 dalla maglia rosa. Come si muove uno come Rubio domani? Va in fuga, che fa? Ma io, è possibile che anche nel giorno di riposo devo sentire Kautz che parla di Rubio. Leonardo adesso tirerà fuori Tao Gegenhardt, che avrebbe vinto oggi. No, non lo sappiamo. Non lo però sappiamo. Non lo menzioniamo da qualche puntata, salutiamolo, lo facciamo. Come sempre, un abbraccio a Theo Gegenhardt. Dunque, oggi è il 22 di maggio, non è un giorno qualsiasi, come ben saprete, perché la quinta dell'Istituto Tecnico Giulio Natta di Rivoli, dove siamo stati qualche giorno fa, aveva il compito in classe sommativo di fine anno. Ah, sì? Di statistica, il nostro amico professore di statistica ci ha mandato il compito. Ah. E a questo allora, punto ascoltiamo. Io lancio, è un po' lungo il compito in classe, lancio però le prime due domande tali come sono scritte dal nostro amico Stefano. Giusto? Le lancio ai nostri ascoltatori, aspettiamo le loro risposte, non vi chiedo di rispondere. Quindi compiti a casa per il compiti giorno compiti a casa per il giorno di riposo. Okay. Allora, domanda numero uno, tale quale come è scritta. Al Giro d'Italia, le tre più belle settimane dell'anno per il professor Panetta partecipano i due fratelli Bais, Mattia e Davide. Le probabilità che Mattia vada in fuga è del 30%, mentre per Davide la probabilità scende al 25%. Determina qual è la probabilità. Suggerimento: aiutati con un diagramma ad albero. Possibilità 1, anzi A, che vadano entrambi in fuga, B, che nessuno dei due vada in fuga, C, che uno dei due vada in fuga, di che almeno uno dei due vada in fuga. Questa è tostarella. Tra l'altro ho sbagliato, dire. Non è una cosa, non è una risposta multipla, devi calcolare le probabilità di ciascuna certo di queste cose. Questa era la domanda 1. Aspettiamo le risposte dei nostri ascoltatori. Però scusa un attimo, questa è una cosa vera, cioè c'è un documento che ci prova ho davanti a me il PDF che è trapelato dai nostri informatori. Domanda numero 2, poi basta. Sono di più, però sono tutte a tema. Ma io le voglio tutte. Sono tutte a tema, poi dopo te lo giro. Mancano 6 tappe al termine del Giro d'Italia. I corridori ancora in corsa sono 132, di cui 37 italiani. Immaginando che ciascun corridore abbia la stessa probabilità di vincere la tappa, determina la probabilità che A. gli italiani non vincano nessuna tappa, B. gli italiani vincano esattamente 2 tappe, C. gli italiani vincano meno di 2 tappe, D. gli italiani vincano più di 2 tappe. Aspettiamo le vostre risposte, perché chi lo fa corretto, io non sono in grado di dire la risposta corretta, ma chiederemo al nostro amico Stefano, vince il diploma in Beppe Conteggiamento. Che rilasciamo noi? Viene rilasciato dal Ministero dell'Istruzione. Ah, okay. Qui serve del calcolo combinatorio non banale per risolvere questi esercizi. E così vi abbiamo dato i compiti per la serata di quest'oggi, vi diamo anche un appuntamento per domani, i nostri ascoltatori torinesi, da Pai Bikery a Torino alle 18.30 e in Borgo Dora Gianluca Favetto e Gino Cervi presentano Eravamo giovani e incoscienti, autobiografia di Laurent Fignon. Bellissimo. Grande libro. Abbiamo terminato, credo, non vedo più nulla nella nostra scaletta se non una parola saluti. Michele, sei d'accordo? Sì, salutiamo. Okay. Salutiamo e ci diamo appuntamento a domani sera, credo, a un certo punto. A un certo punto. Sapremo chi avrà vinto sul Monte Bondone, sapremo chi sarà la nuova o vecchia maglia rosa. Ringraziamo nuovamente tutti i nostri ospiti e i nostri amici di Shimano che ci hanno tenuto compagnia in questa giornata di riposo e nella giornata di ieri. Grazie e a tutti. Andiamo in piscina. Ciao. Ciao. Ciao.